e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Grande richiesta, a grande richiesta al nostro gufo, molti ascoltatori già l'hanno chiesto. Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, come avete sentito dal nostro gufo estivo e sudato, ma sicuramente non disoccupato, oggi ci vuole tutto perché sta un po' migliorando la borsa, non siamo ai minimi, ma insomma il calo è arrivato quasi al 3% in Milano, adesso siamo al 2,5%. Parigi meno 2,14, Francoforte meno 1,80, Londra meno 1,80, l'America che perdeva oltre il 2% sta recuperando adesso meno 1,70%, però poi come sempre in questi casi se si va a guardare dentro i titoli, dentro il listino, i cali sono pesantissimi in alcuni casi, soprattutto per Fondiaria Assai, è un tonfo vero e proprio, meno 9,70% a 4 euro per azione. Nonostante il salvataggio del gruppo, da parte del gruppo Unicredit, della Galassia Ligresti, i dettagli dei prezzi dell'aumento di capitale di Fondiaria Assai e Milano Assicurazioni sono arrivati, sono aumenti di capitale a sconto del 40% nel caso di Fondiaria Assai e del 37% nel caso di Milano Assicurazioni. Infatti Milano Assicurazioni perde il 13% sul risparmio e il 25% sulle ordinarie. Praticamente oggi Milano Assicurazioni ha ridotto di un quarto il suo valore in una giornata, non è male. Ultimo prezzo 57 centesimi, 349-238-6666 per i vostri sms e rapidamente le altre notizie in breve. Dall'America oggi sono arrivati anche due dati non buoni, in aumento i sussidi di disoccupazione, peggiore di ogni attesa il dato 430.000. E calano le vendite di nuove case negli Stati Uniti del 2%. Via libera del Parlamento europeo alla nomina di Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea. Per quello che riguarda invece l'Italia, i nostri GR vi hanno ricordato che l'anno prossimo, anzi quest'anno, l'IRAP e l'IRPEF saranno più care in Calabria, in Campania e Molise, perché ci sono le condizioni, visto che non hanno raggiunto queste tre regioni gli obiettivi di rientro dal disavanzo sanitario, come prevede la legge, aumenterà l'IRAP, quindi 0,15 punti percentuali, e l'IRPEF 0,30 punti percentuali. I cittadini di Calabria, Campania e Molise se la prendono con i loro governatori di regione, presidenti di regione, se pagheranno un IRPEF e un IRAP più alto. Di Confcommercio parleremo, il presidente Sangalli ha detto che siamo ancora in frenata, la crescita è fragile, chi evade mina il patto di cittadinanza, ma va ascoltato chi evade perché non riesce più a sopravvivere. E poi ripeto la critica, uno scambio, abbassamento di IRPEF e aumento di IVA, che è una delle ipotesi circolate sulla rimodulazione fiscale del governo. E adesso il rapporto del Centro Studi Confindustria, rapporto di metà anno sulle previsioni economiche. Dico subito che insomma non è un buon rapporto, l'Italia non brilla, ancora giù e quindi riviste a ribasso le stime 2011 e 2012. Non solo, perché se il PIL crescerà meno del previsto, secondo il Centro Studi Confindustria, non 1,1% ma 0,9% quest'anno e anche nel 2012, siamo due decimali in meno rispetto alle previsioni, però vuol dire quasi un 20% in meno sulla stima iniziale. Sempre il Centro Studi Confindustria avverte, occorre varare misure credibili, oppure per centrare gli obiettivi europei, quelli che abbiamo firmato anche noi di azzerare il deficit entro il 2014, bisognerà fare una manovra da altri 18 miliardi di euro, oltre ai 39 previsti, quindi stiamo parlando in totale di 57 miliardi di euro. E poi la stima sul costo, su quanti hanno perso il posto di lavoro, 582.000 persone da quando è iniziata la recessione, quindi 2008 all'inizio del 2011, hanno perso il lavoro in Italia. Poi anche dati sulla bolletta energetica, quanto sta pesando sulle famiglie, ma anche l'andamento dei mutui. Insomma, ce n'è abbastanza per collegarsi con il direttore del Centro Studi Confindustria, Luca Paolazzi. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, preciso come ogni volta, noi agli ospiti diamo sempre del lei, tranne quando sono dei colleghi, e Luca Paolazzi è tutto un collega, lo è stato molto, molte volte ospite da giornalista. Luca, andiamo subito al punto, perché oggi sui mercati sta succedendo un po' di tutto. Ma insomma, la stima di una crescita più bassa del previsto sia nel 2011 che nel 2012, a cosa è imputabile? Mi rendo conto che è una semplificazione, ma se dovessi dare un titolo... In realtà molti fattori che hanno giocato, il dollaro più debole di quello che avevamo previsto a dicembre, noi avevamo indicato allora un 1,30, adesso indichiamo 1,45, il prezzo del petrolio nettamente più elevato, attualmente indichiamo 115, anche se in questi giorni sta scendendo, però è un mercato fisico che rimane con scarsità di offerta, e allora indicavamo 88 dollari. Poi la decisione da parte della Banca Centrale Europea di aumentare i tassi di interesse in anticipo rispetto a quello che era la previsione fatta da allora, e in misura molto più consistente. Queste mi sembrano delle indicazioni, delle cause che non hanno a che fare con noi. Poi ci sono in realtà anche delle cause più interne all'economia italiana, perché questi stessi fattori agiscono su tutto il mondo, però abbiamo visto che la Germania, la Francia sono cresciute tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno più rapidamente dell'Italia, e quindi diciamo ci sono dei fattori di perdita di competitività del nostro paese che fanno sì che il nostro PIL avanzi meno rapidamente di quanto noi avessimo stimato, previsto, atteso. Devo dire che, per quello che conta il nostro modesto osservatorio, è da aprile-maggio, hanno ragione alcuni ascoltatori a ricordarcelo, che riceviamo messaggi e email da nord-est, nord-ovest, di un calo, rallentamento negli ordinativi industriali, calo in alcuni casi, dicono drammatico, degli ordinativi industriali. Mi sembra che voi purtroppo confermiate anche a livello aggregato che questo rallentamento c'è. Luca Paolazzi, voi stimate l'aumento dei costi dell'energia pesare per 680 euro a famiglia in un anno, l'aumento dei tassi di interesse in media sui mutui variabili 1000 euro a famiglia. Allora, parliamo del 2011 su 2010, certo. Allora, sull'energia si può fare poco, ma sui tassi di interesse, con quello che sta capitando, a tuo avviso ha ancora un senso che la Banca Centrale Europea li aumenti? È una buona domanda. Ogni tanto mi capita. No, nel senso che credo che la Banca Centrale Europea continuerà a cercare di disancorare e slegare la politica sui tassi di interesse da quello che è la politica che riguarda invece il sostegno al sistema bancario e la liquidità bancaria, quindi in particolare il sostegno alle banche greche, che senza la liquidità iniettata dalla Banca Centrale Europea avrebbero difficoltà a reperire fondi sul mercato, anche perché hanno visto un'emorragia di depositi bancari, per la quali depositi bancari per lo più sono finiti in titoli di Stato greco, peraltro non sono andati, diciamo così, alle imprese, fly to quality all'estero, perché è aumentato molto l'importanza dei privati nel finanziare i titoli pubblici greci, i titoli pubblici greci. Credo che la Banca Centrale Europea, se non altro il rialzo di luglio lo farà, poi vediamo cosa succede nell'economia mondiale. Attualmente stiamo anche vivendo una flessione dovuta a quelle che sono le lunghe, drammatiche conseguenze del terremoto giapponese, che non ha inciso solo su quella che comunque rimane la terza economia del mondo, ma attraverso la catena globali del valore e quindi diciamo le lunghe filiere industriali hanno penalizzato l'industria automobilistica un po' in ogni angolo del globo e anche quella dei consumi dei prodotti di consumo elettronico, perché l'area colpita dal terremoto era un concentrato di industrie di alta tecnologia che forniva componenti elettroniche appunto per l'automotive e per questi tipi di prodotti. Esaurita diciamo così le scorte e bloccata la produzione a catena, si sono bloccate le produzioni un po' in giro per il mondo e inevitabilmente quindi le vendite, nonostante come dire magari la volontà di un cliente di acquistare, si sono contratte. Allora, veniamo poi ai temi di casa nostra, e cioè la manovra finanziaria. Noi abbiamo firmato, lo ricordo a tutti quelli che sono in ascolto, un accordo con l'Europa per cui porteremo il deficit praticamente a zero nel 2014. Siccome il deficit sono più o meno 40 miliardi, sono 3 punti e mezzo di PIL, ogni punto di PIL sono 14-15 miliardi, sono più o meno 40 miliardi di euro, immaginando una crescita come questa ci vuole una manovra in 3 anni, da 40 miliardi. Perché voi dite oggi che o vengono fatte misure strutturali oppure bisognerà aggiungere a questi 39 miliardi altri 18 miliardi? Ma in realtà 18 miliardi non è una stima nostra, è il governo che nei suoi documenti ufficiali ha fatto, come dire, un esercizio di sensibilità dell'andamento dei conti pubblici a un andamento del PIL meno rapido di quello che in quegli stessi documenti c'è scritto e un rallentamento della crescita, loro dicono, bisognerebbe fare una manovra aggiuntiva di un punto di PIL, questo è da lì vengono i 18 miliardi. Noi pensiamo appunto che il governo in realtà centrerà gli obiettivi di finanza pubblica, però se lo dovesse fare con una crescita più lenta quello che stesse ha previsto e di quello che prevediamo noi, allora appunto sarà costretto a intervenire ulteriormente. Che lo faccia diciamo con delle manovre o che lo faccia come dire usando il rubinetto della spesa è un altro paio di maniche, però appunto dovrà intervenire per quella montare, ripeto, una montare indicata dal governo stesso. Aggiungiamo che nelle nostre previsioni di oggi abbiamo detto che se il raggiungimento del 2,7%, in realtà diciamo 2,8% nel rapporto deficit-PIL per il 2012 è un must, un dovere assoluto, un imperativo categorico, d'altra parte questo raggiungimento ha degli effetti sul sistema economico che vanno in qualche modo compensati con riforme strutturali che diano un nuovo slancio all'economia, riforme credibili, riforme da adottare subito, e senza queste riforme noi pensiamo che si farà sentire sulla crescita appunto la riduzione del deficit, e questo si tradurrà in una dinamica del PIL italiano che invece di essere dell'1,1 sarà dello 0,6%. Ultima domanda, Luca Paolazzi. La manovra fiscale, voi non è che, so ben visto, non siete intervenuti direttamente, però oggi c'è stata una dichiarazione del ministro Romani che dice no, non faremo la manovra fiscale, non si baserà sull'aumento dell'IVA, la Confcommercio è molto critica su questo, la Confindustria ha chiesto più volte che venga alleggerita la tassazione sul guadagno da lavoro e casomai si vada a toccare altre forme di tassazione, per esempio aggiungo io i guadagni da capitale o da rendita. Abbiamo avuto diversi cicli di interventi in questi giorni. Vorrei capire, cioè tu hai maggiori ragguagli sul tipo di manovra fiscale, perché noi non stiamo capendo più niente se non tocco neanche l'IVA, e se tu insomma, hai una tua anche personale idea su come dovrebbe essere rimodulata la pressione fiscale. Noi non abbiamo fatto, Confindustria non ha fatto proposte ufficiali, quindi non ho in questo momento numeri o cifre da sottoporre agli ascoltatori di Radio 24. Continua a ritenere che la pressione vada rimodulata in due modi. La prima è riducendo l'evasione fiscale e abbattendo le aliquote in modo da abbassare gli oneri su chi paga le tasse, e normalmente sono imprese strutturate, esposte alla concorrenza con l'estero, e quindi imprese, lavoratori di quelle imprese ovviamente, sottolineo il secondo aspetto. In secondo luogo può esserci, a parità di gettito e di pressione fiscale, perché non dobbiamo dimenticarci che col debito pubblico abbiamo non possiamo allentare la pressione fiscale, possiamo ricomporre le entrate, e l'idea appunto è quella che tu suggerivi, di una minor pressione sul reddito d'impresa e di lavoro dipendente, e evidentemente spostando il carico sulle imposte indirette e su altre forme di reddito che gli inglesi chiamerebbero non guadagnato, perché non è frutto di lavoro di oggi ma di risparmio, ricchezza accumulata in passato. Sì, magari non necessariamente dallo stesso soggetto, anche dalle famiglie o quant'altro. Comunque, grazie a Luca Paolazzi per la chiarezza. E adesso sentiremo anche cosa ha detto Emma Marcegaglia sul tema dei costi della disoccupazione, ma anche della riforma della giustizia, perché c'è un tema molto importante, come anche tu scrivevi su Sole 24 Ore. Insomma, voi avete calcolato che se la giustizia fosse del 10% più breve come processi, pensate un po', vi sarebbe un aumento del PIL dello 0,8%. Una cosa incredibile. Grazie comunque a Luca Paolazzi, direttore del Centro di Confindustria. Dunque, sul calo abbiamo detto ampiamente in apertura, Fondiere Sai meno 9,90%, e qui c'è un motivo però anche, tra virgolette, tecnico, ossia sono usciti i valori dell'aumento di capitale, i prezzi dell'aumento del capitale di Fondiere Sai di Milano Assicurazioni, e sono a sconto, cioè un aumento di capitale in cui il titolo vale tra il 40% in meno per Fondiere Sai e il 37% in meno per Milano Assicurazioni, tant'è che Milano Assicurazioni perde il 28,12% oggi, meno a 55 centesimi per azione. Fondiere Sai sul risparmio perde il 15%. Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Fondiere Sai. Allora, per quello che riguarda Fondiere Sai, Milano Assicurazione, come hai già detto tu, cioè i titoli pagano l'annuncio delle condizioni dell'aumento di capitale, 450 milioni di euro di aumento di capitale per Fonsai, 350 per Milano Assicurazione. I titoli saranno a forte sconto anche rispetto alle altre operazioni di aumento di capitale che abbiamo visto nell'ultimo periodo, perché qui gli sconti appunto rispetto al prezzo sono dell'ordine del 40%, 39,6% per Fonsai, 37,3% per Milano Assicurazioni. Paga di più Milano Assicurazioni perché in qualche modo Fondiere Sai aveva già perso molto nei giorni scorsi, e comunque è stata la lettura del mercato è stata ancora molto pesante, perché forse non ci si aspettava cali così forti. Alla vigilia si diceva sì che ci sarebbe stato uno sconto fra il 30 e il 40%, cosa che poi è andato nella parte diciamo peggiore della forchetta. Mediaset meno 6,70% nel giorno in cui appunto la 7 annuncia il palinsesto. Sì. Qui dopo le indiscrezioni, i report degli analisti circolati nei giorni scorsi, questa mattina la società ha deciso di fare chiarezza sull'andamento del mercato pubblicitario. Ha detto chiaramente che nel primo semestre la raccolta pubblicitaria sarà in calo, anche se un calo minore rispetto a quello del mercato nel suo complesso, che è atteso con un meno 4, meno 5%, e anche la seconda parte dell'anno, contrariamente a quello che aveva indicato prima, non dovrebbe essere positiva, si aspettano nuovi cali, mentre prima la società aveva sempre indicato una ripresa del mercato pubblicitario. Su queste notizie il titolo ha ceduto il 6,67%. Estima Electronics meno 5,64% sull'effetto Nokia. Sì, l'effetto Nokia, perché Nokia aveva comunicato i giorni scorsi di attendersi una domanda debole, e se Microelectronics vede per il 13% del suo fatturato, il 13% del suo fatturato dipende da Nokia, e per cui oggi alcuni analisti hanno iniziato a rifare i calcoli sulle stime di utili, e questo ha penalizzato, è andato a penalizzare il titolo, che ha ceduto il 5,64%. E adesso veniamo alla pattuglia dei titoli bancari, come si dice con un linguaggio un po' Esatto, una frase un po' fatta, meno 5,16% UbiBanca, meno 5,12% Monte dei Paschi, meno 4,90% Unicredito, meno 4,80% Popolare di Milano, meno 4,50% Banco Popolare, meno 4,35% Intesa San Paolo. Sì, diciamo, banche ancora sotto pressione a Piazza Affari, ma anche nel resto d'Europa, alla vigilia dell'Eurogruppo che inizia questa sera, e su cui rimane sempre sullo sfondo la questione Grecia, pronta ad entrare come tema di discussione. Ieri a suonare un nuovo campanello d'allarme sul settore bancario era stato il presidente della BCE Trichet, che aveva sottolineato proprio come il maggior rischio per il sistema bancario europeo viene dalla crisi del debito sovrano, quindi dalla crisi del debito greco. A Barisò, ma che niente, sei te che porti Iella, scrive un ascoltatore, immagino, di Roma. Non lo so, fosse così facile, guardate ragazzi, sono disposto anche a andarmene domani se la borsa fa il botto. Ancora sui titoli, vediamo Prysmian in difficoltà, meno 4,80%, e ancora oltre i bancari l'automatica, però i realizzi oggi meno 3,91%, A2A meno 3,70%, Mediobanca meno 3,30%. Cosa va bene? Boh, Luxottica più 0,14%, Campari più 0,09%, Snam Rete Gas non se la cava male, perde solo mezzo punto percentuale. Sì, per quello che riguarda Snam Rete Gas ci sono alcuni studi da parte degli analisti che indicano come la società sia ben posizionata per approfittare del no al nucleare. Ci si attende una serie di investimenti su energie diverse dal nucleare, quindi anche sul gas, e per questa ragione Snam Rete Gas oggi si è emessa, diciamo, ha limitato le perdite con quello 0,5% di calo. Allora, volete sapere della Fiat? Perde l'1,70% Fiat sul settore auto. Fiat invece camion e trattori, eccola qua, Fiat Industrial meno 1,94%, migliori e peggiori in assoluto, Monti Ascensori più 15,50% e Industria Innovazione più 2,60%, il peggiore appunto Milano Assicurazioni meno 28%, Fondiera Sai sulla risparmio meno 15%, Tiscali meno 11,5%, e ancora sul fronte, c'è qualche novità dall'incontro alla Popolare di Milano con la Banca d'Italia? No, ancora non abbiamo ancora avuto notizie. No, perché oggi un articolo del Financial Times spaventava addirittura un commissariamento da parte della Banca d'Italia, della Banca Popolare di Milano. Ma insomma, allo stato attuale non sembrerebbero esserci le condizioni. Un commissariamento potrebbe avvenire se ad esempio tutto il CDA si dimettesse, cosa che al momento non è prevedibile, ecco. E allora, un'ultima notizia appena battuta dall'agenzia, ragazzi, oggi bisogna rispolverare tutto l'archivio per giornate come queste. È volato di nuovo sopra i 200 punti base, quindi sopra il 2%, la differenza tra quanto rende un BTP italiano a 10 anni e il corrispondente BTP tedesco sempre a 10 anni. 208 punti e ai massimi dal dicembre scorso. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. E come alcuni forse hanno già visto l'agenzia, insomma, i numeri sono di tutto rilievo. Cerchiamo di tenere assieme i numeri che riguardano la lotta alla criminalità organizzata, ma anche le frodi fiscali, con il tenente colonnello delle Fiamme Gialle, Gianluca Campana. Buonasera. Buonasera. Allora, primo dato, frodi fiscali, persone denunciate, l'attività e anche il tipo di controlli che avete realizzato nei primi 5 mesi del 2011. Nei primi 5 mesi di quest'anno la Guardia di Finanza ha ulteriormente rafforzato la lotta all'evasione fiscale, puntando mediante un innalzamento ulteriore della qualità dei nostri interventi nei confronti dei fenomeni più gravi e pericolosi. In modo particolare mi riferisco alle condotte più gravi che costituiscono reato, che ci hanno consentito di denunciare oltre 5.300 soggetti responsabili dei fatti più gravi, quale l'emissione e la dichiarazione fraudolente mediante utilizzo di fatture false e l'omesso versamento delle imposte. Queste indagini ci hanno consentito di sequestrare agli evasori 542 milioni di euro, con un netto incremento rispetto allo scorso anno. La nostra attività comunque prosegue anche nei confronti dell'evasione internazionale e dell'economia sommersa. Per quanto riguarda l'evasione fiscale internazionale, abbiamo individuato 7 miliardi di euro non dichiarati nei soli primi 5 mesi di quest'anno, riconducibili al trasferimento fittizio della residenza fiscale di società e di persone fisiche in paradisi fiscali o comunque all'estero, o al ricorso di ulteriori e diverse manovre fraudolente. 11 miliardi di euro sono invece i redditi non dichiarati da imprese e da professionisti, cosiddetti evasori totali, cioè che per uno o più periodi d'imposta non hanno presentato le dichiarazioni annuali. Quindi 5.360 soggetti, persone denunciate, sì, per frodi e reati fiscali, un più, sì, 13%. La maggior parte sono per aver utilizzato o emesso fatture false, sì, e con 108 arresti, no? Con 108 arresti, sì. E poi le diceva l'evasione fiscale internazionale, scoperti i redditi non dichiarati per 7 miliardi di euro nei primi 5 mesi, e qui col, sì, trucchetto, diciamo, della fittizia residenza. Sì, quella è una delle tecniche, sì, ce ne sono anche altre, anche più complesse, quale l'utilizzo di strumenti finanziari derivati o comunque ricorso di tecniche quale il transfer pricing, piuttosto che la sovraffatturazione di rapporti con l'estero. Le tecniche sono le più, sì, identificate, certo, l'utilizzo anche esempio di trust, ad esempio. E questa è la parte, diciamo, della frode fiscale. Poi c'è tutto l'aspetto legato anche alla contraffazione, che interessa molto le nostre imprese. Allora, voi operate anche nel campo del contrasto alla contraffazione. Quanto avete sequestrato nei primi 5 mesi del 2011? Nei primi 5 mesi abbiamo sequestrato circa 37 milioni di pezzi. La maggior parte di questi riguardano il comparto della moda e dei prodotti di griff. Anche se abbiamo comunque registrato un sensibile aumento dei sequestri di beni di largo consumo e in particolare di cosmetici contraffatti, e qui è importante segnalare il fatto che questi prodotti contraffatti erano prodotti anche insicuri, quindi potenzialmente, certo, anche dannosi per la salute dei consumatori. Mi scusi, questo aumento dei prodotti contraffatti, soprattutto nel settore dei cosmetici, è un aumento di 6 volte. Cioè quasi oltre il 500% rispetto all'anno prima. Sono prodotti che arrivano da dove? Cioè li facciamo in Italia o arrivano dall'estero? Abbiamo tendenzialmente una provenienza estera. Cina? Sì, principalmente, ma non solo. L'Italia essenzialmente è uno dei mercati di sbocco e di utilizzo di questi prodotti, però tendenzialmente abbiamo una grossa fetta che proviene dall'estero. E poi la lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro sporco, che è la parte più delicata, intanto perché rientra comunque nell'evasione fiscale, il denaro della criminalità organizzata di solito non viene dichiarato. Come è andato il contrasto e quindi l'attività antimafia? In senso lato? In antimafia noi abbiamo intensificato ulteriormente la nostra azione, che è finalizzata essenzialmente al contrasto di tipo patrimoniale, cioè i nostri interventi, le nostre investigazioni mirano al sequestro dei beni che la mafia illecitamente accumula. Abbiamo seguito nei primi 5 mesi investigazioni nei confronti di oltre 5.200 persone che ci hanno consentito di sequestrare beni per 1.200 miliardi. Abbiamo altresì innalzato il livello anche dei beni confiscati, cioè quelli che sono definitivamente attratti alla disponibilità dello Stato, per 338 milioni di euro. Abbiamo altresì denunciato 47 persone, di cui 31 arrestate per reati di associazione delinquente stampo mafioso, ed altre 173 per il trasferimento fraudolento di valori. In questo contesto spiccano anche gli approfondimenti delle segnalazioni sospette antiriciclaggio, che ci consentono, attraverso l'esame dei flussi finanziari, a ricostruire le disponibilità illecite. E questo sul fronte, appunto, dei sequestri, del contrasto alla criminalità organizzata. Quante persone avete denunciate e arrestate? In materia di criminalità organizzata, sì. Abbiamo denunciato 47 persone, di cui 31 in arresto per il reato di associazione delinquente di stampo mafioso, e altrettante 173 denunciate per il reato di sequestro fraudolento di trasferimento fraudolento di valori. E poi ci sono anche le segnalazioni per operazioni finanziarie sospette, no? 1.800 quelle esaminate e approfondite nei primi 5 mesi di quest'anno, e ci hanno consentito di ricostruire e analizzare i flussi finanziari illeciti. Ultimo aspetto, ma non ultimo come importanza, la lotta allo spreco di denaro pubblico. Forse non tutti sanno che la Guardia di Finanza si occupa anche di questo. Spesa sanitaria, ma non solo. Mi dia i dati innanzitutto. Nel settore della spesa pubblica abbiamo eseguito oltre 2.500 interventi che ci hanno consentito di denunciare 5.500 persone, di cui 20 arrestate, e di bloccare finanziamenti indebiti per oltre 308 milioni di euro. I nostri interventi non si fermano qui, ma riguardano anche l'attività a tutela della spesa sanitaria, dove abbiamo denunciato 1.238 persone per truffe e di individuare un danno al Servizio Sanitario Nazionale stimato per 23 milioni di euro. E poi vedo appunto soprattutto sulla spesa sanitaria si sono concentrati gli interventi. Mi dico una cosa, le difficoltà più forti che avete avuto nella vostra attività di contrasto a evasione, criminalità organizzata, contraffazione, quali sono state? Cioè, dov'è che ricevete meno aiuto? Le difficoltà essenzialmente consistono nel adeguare e scoprire i nuovi metodi per riciclare somme di provenienza illecita, ovvero per occultare i proventi del fisco. In questo caso la nostra attività mira principalmente a utilizzare tutte le nostre prerogative, le nostre funzioni di polizia giudiziaria e di polizia tributaria, ricorrendo alle indagini finanziarie, utilizzando in maniera trasversale i nostri poteri e il nostro approccio investigativo a questi fenomeni. Grazie, in bocca al lupo per l'attività che svolge tutta la Guardia di Finanza. Grazie al tenente colonnello Gianluca Campana. Arrivederci. È l'ennesima puntata sui costi della politica. Insomma, l'affitto, dunque, le spese per la Camera dei Deputati arriveranno nel 2011 a 1 miliardo di euro. E 1 miliardo sarà anche nel 2012 e nel 2013. Anzi, costerà un po' di più da qui al 2013, da 1.070.994.000 euro a 1.114.000. E poi la previdenza da 238 milioni, scusate, 200 mila euro a 143 milioni di euro, lo stanziamento previdenziale per i deputati, e poi ci sono anche 480 familiari che godono della reversibilità. Penso che le spese per gli affitti sono schizzate a 54 milioni di euro, 54 milioni di euro di spese per affitto. Per la segreteria 27 milioni di euro, ma quanto scrivono, quanto costano queste pene dei nostri deputati? 27 milioni di euro. E poi noi manteniamo 1.813 persone tra deputati in pensione e familiari con la reversibilità, con oltre 6.000 euro al mese a testa. E poi un dato che riguarda il lavoro interinale, o meglio il lavoro in nero, perché nonostante questi stipendi, su 630 deputati, quindi alla Camera, solo 260 hanno messo in regola il loro portaborse. 260 su 630, è una vergogna. Come si fa a dare l'esempio se poi tu sei il primo a tenere un collaboratore in nero? Vabbè. Non so se si rendono conto della situazione che c'è fuori, noi la raccontiamo tutti i giorni. Comunque, una nota positiva: domani il Sole 24 Ore esce con le sue guide del giovedì, e domani la guida riguarda il mettersi in proprio, quindi far partire una start-up, un'attività dal nulla, far nascere un'impresa nel servizio, nel manifatturiero, e appunto si chiama proprio mettersi in proprio, e in edicola da domani in omaggio con il Sole 24 Ore. Ci racconta di soprattutto quali saranno i consigli principali il collega del Sole 24 Ore, la collega del Sole 24 Ore, Francesca Barbieri. Buonasera Francesca. Buonasera. Allora, cosa cercherete di spiegare? Sì, diciamo che l'obiettivo è fornire una bussola a chi vuole avviare un'impresa, attraverso appunto l'esame nel dettaglio e soprattutto in modo molto pratico delle principali fonti di finanziamento. che sono tantissime, per cui non è facile andarle ad individuare. Per cui ci sarà l'esame delle fonti europee, come trovare, come districarsi tra i vari bandi regionali e come ottenere finanziamenti, appunto bussando Invitalia, che è l'agenzia dello Stato che gestisce le risorse per chi vuole mettersi in proprio, e poi l'ultima pagina è dedicata ai finanziamenti ad hoc messi appunto dalle banche. E oltre, diciamo, alle quattro pagine che domani saranno in allegato con all'interno, insomma, del Sole 24 Ore, ci sarà poi tutto uno sviluppo online. Infatti all'indirizzo web www.ilsole24ore.com/improprio ci sarà tutta una serie di contenuti extra, e si parte proprio con un test, c'è la possibilità di capire qual è la propria attitudine a fare, certo, impresa, per poi calcolarsi le agevolazioni, come fare il business plan, quindi tutta una serie di indicazioni con un taglio fortemente pratico. E questo è importante, domani appunto in allegato in edicola assieme al Sole 24 Ore a costo zero, cioè quindi gratis, la guida del Sole 24 Ore a mettersi in proprio, che se avanti così riguarderà più di una persona. Grazie a Francesca Barbieri. Prego, buonasera. Sì, lo so, vedo che molti scrivono, ma perché non si tagliano i deputati, i 630 deputati e i 315 senatori, che sono il doppio di quelli americani? In America ha semplicemente 5 volte i nostri abitanti, però. Ma dov'è la Lega che aveva proposto questo? Dov'è la Lega che aveva proposto la chiusura delle province, la riduzione? Perché non c'è un accordo bipartisan per dare un segnale forte al paese, visto che oggi il centro di Confindustria ha ribadito il PIL crescerà meno delle attese e se non si mette mano subito a una riforma, oltre ai 39 miliardi ne serviranno altri 18. Ma è possibile che si debba sempre arrivare sull'orlo del baratro? Lega e tutti gli altri, eh? O forse come chiedere al tacchino di anticipare Natale? Non lo so, comunque adesso è arrivata un'altra bella notizia oggi. L'agenzia di rating Moody's ha messo sotto osservazione per un possibile abbassamento del voto 16 banche italiane in vista di un possibile taglio del voto sulla scia dell'analogo provvedimento adottato per l'Italia. Allora usiamo tutto il nostro archivio, la Soralella, Frankenstein Junior. Andiamo bene, proprio bene. E come? Potrebbe piovere. E poi abbiamo finito, la Confcommercio oggi, ma prima di tutto la proposta arrivata da Emma Marcegaglia a margine della presentazione dei dati del Sole 24 Ore, del Centro Studi Confindustria, che ci ha illustrato prima Luca Paolazzi. Ha detto la presidente di Confindustria, ci vorrebbe, tra le manovre da prendere, e sarebbe tutta la riforma e tutta la manovra più credibile, se si intervenisse sull'età delle pensioni anticipando al 2013 l'aggancio alle speranze di vita. Ascoltiamo al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Penso che sia corretto, un po' tutta l'Europa si sta muovendo in questa direzione, si tratterebbe solo di anticipare di alcuni anni una riforma che è già stata definita l'anno scorso, e quindi io credo che, dovendo fare una manovra di questa entità, questo è un punto importante, dà credibilità alla manovra, è una manovra strutturale, quindi sono d'accordo che questo è uno dei punti fondamentali di cui deve essere composta la manovra. E poi un accenno che facevamo anche prima con Luca Paolazzi. Il Centro Studi Confindustria ha stimato che se si riducesse del 10% la lunghezza dei processi, ne guadagneremmo lo 0,8% del PIL, cioè l'80% in più di quanto stiamo crescendo. Sempre su questo la presidente di Confindustria, Marcegaglia, sempre intervistata dalla nostra Alessandra Schepisi. La durata dei processi civili in Italia è molto più alta che negli altri paesi, c'è un costo maggiore per le imprese e per i cittadini per avere ragione, c'è anche una grande domanda di giustizia, c'è molta litigiosità, allora noi pensiamo veramente, c'è una stima fatta da noi ma fatta anche dal governatore della Banca d'Italia, che se noi abbattessimo del 10% i tempi della giustizia civile potremmo avere un incremento del PIL dello 0,8, quindi è importante agire anche su questo, ne parleremo col ministro Alfano, bisogna accorpare usare i tribunali, noi abbiamo troppi tribunali, bisogna usare molto la digitalizzazione che ridurrebbe appunto i tempi, bisogna anche, come dire, fare in modo che prima di fare causa una persona debba magari pagare qualcosa, perché spesso ci c'è un'enormità, un numero enorme di cause. Tra l'altro in Italia abbiamo visto che l'enormità delle cause è cresciuta con la crescita degli avvocati, quindi è come se, come dire, gli avvocati stessi si creassero una domanda. Quindi, insomma, ci sono una serie di cose da fare, importanti, bisogna farle, perché questo tema è un tema fondamentale per la crescita, ma è anche un tema per ridare anche fiducia alle imprese e ai cittadini e riportarci a livello, come dire, europeo. Anche qui, visto che oggi è una giornata da gufo per come sono andati i mercati, per le stime del Centro Studi Confindustria, una brevissima postilla, cioè, la riforma della giustizia civile è fondamentale per generare ricchezza in questo paese, perché non riesce a fare business in nessun paese dove hai i tempi della giustizia nostra. Peccato che in questi anni si sia solo parlato della riforma della giustizia penale. (349) 238 6666 per i vostri sms. Allora, in questi giorni abbiamo ascoltato diverse opinioni su che tipo di manovra di rimodulazione, come l'ha chiamata il governo, dovrebbe fare il governo, fiscale intendo dire. L'ipotesi circolata con più forza assieme a un aumento, a un'omogenizzazione anche qui della tassazione sulle rendite finanziarie, cioè portare dal 12,5% al 20% i guadagni da capitale e far scendere dal 23,5% al 20% la tassa sui conti correnti bancari. L'altra grossa ipotesi circolata è quella dell'aumento dell'IVA, cioè ridurre l'IRPEF e aumentare un po' l'IVA. Non era abbastanza immaginabile, diciamo, che il mondo del commercio fosse nettamente contrario a questa ipotesi. E ascoltiamo oggi Carlo Sangalli, presidente della Confcommercio, all'Assemblea Generale dell'Associazione, il passaggio su IVA IRPEF, che cosa il mondo del commercio, diciamo, è disposto ad accettare, che cosa invece rifiuta. Tra i principi dell'annunciata riforma fiscale vi è, annota il DEF, documento di economia e finanza, il graduale spostamento dell'asse del prelievo fiscale dalle imposte dirette alle imposte indirette. Se con ciò si vuole dire che occorre concentrarsi sul recupero di un'evasione IVA pari a circa 2,5 punti di PIL, siamo assolutamente d'accordo. Se invece si ipotizza una sorta di scambio, ad esempio, tra la riduzione delle aliquote IRPEF e l'innalzamento delle aliquote IVA, siamo assolutamente contrari. Perché alimenteremmo l'inflazione, colpiremmo i consumi delle famiglie, maggiormente i consumi delle famiglie con livelli di reddito medio-bassi, indurremmo evasione IVA. A chi gioverebbe una simile manovra? Non gioverebbe alla crescita e all'occupazione, che al contrario avrebbero necessità di una più robusta dinamica della domanda interna e particolarmente dei consumi delle famiglie. Stimiamo ad esempio che uno spostamento di gettito da IRPEF ad IVA per circa un punto di PIL determinerebbe una riduzione dei consumi intorno all'1% ed una riduzione del prodotto lordo di oltre lo 0,6%. Netto, chiaro, il no dei commercianti, del mondo del commercio, all'aumento dell'IVA, il motivo è stato ben esplicitato, e cioè aumenterebbe l'inflazione, aumenterebbe anche l'evasione da IVA, deprimerebbe ulteriormente i consumi. E fin qui, diciamo, nulla di strano, cioè era immaginabile che il mondo del commercio, che vede i consumi, fosse molto freddo, se non scettico, sull'aumento dell'IVA, mentre il mondo delle imprese, che si becca un cuneo fiscale, quindi una differenza enorme tra quanto costa un dipendente all'impresa e quanto entra in busta paga al dipendente, invece fosse favorevole a alleggerire la pressione fiscale sui dipendenti e magari aumentarla in altre forme, visto che il tutto deve essere un gioco a somma zero. Quello che io non riesco veramente a capire, lo dico con massimo rispetto, però che cosa ha intenzione di fare il governo, perché ogni giorno ne sentiamo una diversa. Allora, il ministro Romani, Paolo Romani, ministro dello sviluppo economico, è intervenuto all'assemblea di Confcommercio, l'ha raggiunto poi il nostro Andrea Viali a maggio dell'assemblea di Confcommercio. Sentiamo che cosa dice. Non si parla assolutamente dell'aumento dell'IVA e quindi su questo punto, che è un incremento del costo dei beni al consumo per i cittadini, su questo punto non ci sarà incremento. Dopodiché allora, ci sarà uno studio approfondito, perché la riforma fiscale va anche condivisa e quindi ci sarà la continuazione del tavolo che è stato aperto, anzi dei quattro tavoli che sono stati aperti, sulle quali cercheremo di portare a casa, ed è ora, la riforma fiscale. Non è obbligatorio che ci siano risorse. Stamattina anche il Presidente Sangalli ha ricordato che l'eventuale recupero di risorse a fronte di un'evasione che va recuperata può essere data in favore di una riarticolazione della liquidità. Ci sono tanti sistemi, quindi è una cosa che si sta studiando. La manovra è allo studio, è quasi pronta, sarà pronta per la fine del mese. È una manovra sulla quale ci sarà la condivisione, anche in questo caso, dei gruppi parlamentari, delle forze sociali e del governo, ovviamente, che l'affronterà in più di una seduta. E quindi anche su questo punto, siccome è una manovra importante, ci sarà un'inflazione. Ci sarà l'adeguamento delle pensioni? Non siamo ancora entrati nel merito di questo argomento. Allora, io non capisco più nulla, e questo, diciamo, non è una notizia in sé, perché Romani ha escluso che vi sia un aumento dell'IVA. Allora, no aumento dell'IVA, sì però l'abbassamento dell'IRPEF. L'età pensionabile non se ne è discusso, non è che mi resti molto nella fantasia, dov'è che deve prendere? Ok, tutto fatto con le rente finanziarie? Io non lo so. Poi giustamente il ministro Romani dice sarà presentata a fine mese, ma ancora non hanno discusso dell'età pensionabile. Boh. Non si immagina che sia già pronta sta cosa. Va bene, si fa per dire, andiamo avanti. Sull'evasione fiscale, duplice il commento del presidente dei commercianti Sangalli. Ha detto: chi evade mina il patto di cittadinanza. E sbaglia comunque. Va ascoltato chi evade perché non ce la fa più, perché non regge più, perché rischia di chiudere. Bisogna insomma capire ed ascoltare le ragioni di chi davvero non ce la fa più a pagare troppe tasse e troppi contributi. È gente che non conosce l'indirizzo dei paradisi fiscali, ma che sente sulla propria pelle il morso della crisi, non meritano di essere tutti bollati come evasori e di essere condannati alla chiusura delle loro imprese. Per il resto si proceda lungo la strada del contrasto e del recupero di evasione e delusione. Lo si faccia con determinazione e con una sempre più mirata capacità d'accertamento, perché un imponibile evaso pari ad almeno 255 miliardi di euro è una tremenda ipoteca per la crescita e per lo sviluppo del Paese. Perché? Chi evade e chiunque aiuti ad evadere mina le fondamenta del patto di cittadinanza ed agisce contro la crescita e contro lo sviluppo dell'Italia. E poi un appello del presidente del Confcommercio Sangalli alla responsabilità verso la classe politica, dice. Ha detto Sangalli: anche in Italia l'indignazione cresce e chiama in causa la responsabilità di tutti, anzitutto della politica. E poi, vabbè, chiudiamo in bellezza, visto che oggi è una puntata difficile, ve lo posso assicurare. Tra Moody's, che mette sotto osservazione per abbassare il voto 16 banche italiane, la Banca Mondiale che avverte la Russia rischia di finire come la Grecia, la differenza tra i BTP a 10 anni italiani e quelli tedeschi che è volata di nuovo 208 punti, la borsa che ha perso il 2,70%. Chiudiamo con Petrolini, vi prego, che non ce la faccio più. Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Domani torniamo alle 17 per raccontarvi un'altra giornata comico-finanziaria. Per ora, da Sebastiano Berisoni, l'auguro di una buona serata, nonostante tutto. Radio 24. La passione si sente.